chiaro che il funzionamento dell'Eurozona produce delle disuguaglianze, però la mossa di Orban di scaricare le tensioni economiche sulla fascia più debole del mercato del lavoro e sulla classe lavoratrice fa sentire insomma l'eco di un tempo lontano che vorremmo tutti noi cancellare, quello di un periodo della storia dell'Europa in cui appunto le tendenze reazionarie e nazionaliste producevano un arretramento fortissimo dei diritti sociali, dei salari dei lavoratori. Quello che sta succedendo in Ungheria oggi è l'esempio emblematico dei rischi che ci sono, che si corrono e stanno correndo in Europa, direi in tutta Europa. Il caso ungherese è un caso eclatante, semplificativo, perché lì sta maturando un movimento che ha chiare tendenze nazionaliste e xenofobe, ma è un pericolo che abbiamo in quasi tutti i paesi europei, è un pericolo che dobbiamo affrontare tutti insieme, diciamo dentro l'Europa, ecco, perché è una tendenza che si sta consolidando in maniera preoccupante. Tu su questo tema hai scritto anche un post che ci aiuta insomma in questa riflessione, perché in epoca di sovranismo di destra, insomma in epoca di nazionalismo, questa ideologia viene venduta come dire una rappresentanza del popolo, come il popolo contro le elite, le oligarchie finanziarie europee, e da questa mossa invece del governo Orban sembra quasi invece che sia piuttosto organica al capitale. È esattamente così. D'altronde, se guardiamo indietro nella storia degli anni 20 dell'Europa, vediamo esattamente fenomeni simili a quelli che vediamo oggi in Ungheria, cioè la rabbia contro l'elite viene trasformata e fagocitata da forze nazionaliste che scaricano poi in fondo quando governano le tensioni sulle fasce deboli della popolazione. Per cui io vorrei che noi facessimo un passo indietro e cominciassimo a fare un'analisi dello Stato e della sovranità con un occhio molto più attento alla nostra storia, con un occhio meno ideologico, e assumere il tema della sovranità dentro una dimensione democratica e non dentro una dimensione di nazionalista, reazionaria, regressiva. Quello che vedo, quello che leggo oggi dappertutto, ma anche in Italia devo dire, è la tendenza a vedere lo Stato dentro diciamo una dimensione immanentistica, per cui bisogna necessariamente mettere lo Stato contro il mercato indipendentemente dai rapporti di forza che quello Stato sta organizzando, e Orban in Ungheria sta organizzando i rapporti di forza contro le fasce deboli della popolazione. Quindi lo Stato può essere un grande strumento di regressione dei diritti sociali quando è utilizzato nelle forme e nei modi in cui viene utilizzato ad esempio in Ungheria, ma appunto ripeto anche da altre parti d'Europa. D'altronde Trump è un esempio evidente, cioè lì lo Stato è uno strumento per separare chi c'è dentro da chi c'è fuori, non è tanto la mitologia della patria, dello Stato-nazione, ma è soprattutto quello di cinturare i confini, quello di separare chi sta dentro contro chi sta fuori. Prima gli italiani o prima gli americani non significa prima l'Italia o prima l'America, significa prima chi ci sta dentro, chi sta dentro il territorio nazionale contro chi arriva da fuori, chi arriva chiedendo diritti, chi arriva chiedendo lavoro, chi arriva chiedendo salari, chi arriva perché sta scappando dalle guerre o perché ha il diritto e la libertà di potersi muovere in un continente come quello europeo o negli Stati Uniti d'America nel caso di Orban. Per cui dovremmo superare una visione che tende a vedere le istituzioni esclusivamente con una dimensione diciamo immanente. Le istituzioni possono essere usate negli interessi di qualcuno e contro gli interessi di altri. Questo ci insegna la storia, questo ci insegna diciamo la politica, e su questo dovremmo riflettere. Ecco, non ci sono delle istituzioni buone o cattive, ci sono delle istituzioni che vengono usate contro qualcuno e a favore di altri. Sì, e appunto per ribadire quello che ci hai appena spiegato, tu faccio ancora riferimento al tuo post, lo dice anche in un altro modo, secondo me molto efficace, e dice: lo Stato e il politico non hanno la loro origine in una combinazione di elementi culturali o addirittura etnici. Sembrerebbe che nel 2018 questo insomma dovrebbe essere assodato, e invece forse vale la pena ribadirlo. È esattamente così, non c'è le istituzioni e lo Stato, il politico, la formazione dello Stato non avviene sulla base di origini etniche o culturali comuni, avviene sulla base di una decisione che è una decisione di campo, che divide tra amico e nemico, tra chi sta dentro e chi sta fuori. È una decisione tutta politica. Io quando leggo che le istituzioni sono il prodotto di un'omogeneità culturale, di un'omogeneità etnica, mi chiedo dove stiamo arrivando. Perché anche la Costituzione italiana, se la vogliamo leggere nella sua formazione, è una Costituzione orientata contro qualcuno. In quel caso era contro il pericolo fascista, contro lo Stato corporativo. Era una decisione tutta politica che sta dentro un ambito di separazione tra un amico e un nemico. Quindi è una decisione tutta politica e noi dovremmo restituire alla politica, quindi alla discussione politica, la scelta di dove vogliamo andare, senza assumere, diciamo, delle identità precostituite oppure addirittura degli elementi prepolitici che dovrebbero fondare uno Stato, una Costituzione. La Costituzione si fonda sulla base appunto di una scelta che è tutta politica, non origina da nessun elemento, da nessuna radice di tipo etnico-culturale. D'altronde gli Stati Uniti d'America sono l'emblema di uno Stato che ha al suo interno tradizioni culturali, religiose, etniche profondamente diverse, che hanno convissuto per vari tratti, che continuano a convivere per vari tratti della storia dello Stato americano. Per cui, ecco, dovremmo tornare a leggere questi fenomeni come fenomeni dichiaratamente politici, e forse questo ci servirebbe anche a sinistra, perché così magari riusciremmo a capire chi sono i reali nemici e da dove partire per ricostruire, diciamo, una nostra soggettività, ecco. Continuo il parallelo tra l'Ungheria e altri paesi europei, perché si sono fatti largo in questi anni concetti o dell'estrema destra come quello di sostituzione etnica, oppure anche la questione dell'esercito di riserva, che è stato usato equivocando il pensiero di Marx. L'Ungheria, diciamo, non è soggetta a questi fenomeni, cioè non ha un esercito di riserva di migranti e non ha una sostituzione etnica, e quindi quello che le rimane è, come dire, massacrare i suoi lavoratori. Esatto, esattamente così. Ma anche questa idea dell'esercito industriale di riserva la vediamo anche in Italia. Il vero esercito industriale di riserva italiano non sono certo i migranti, ma sono i docenti precari, gli educatori dello Stato italiano, che sono precarizzati, le cui condizioni salariali e lavorative sono sotto la soglia, diciamo, della dignità, e quindi l'esercito industriale di riserva è uno strumento politico che non ha nulla a che vedere spesso con le migrazioni e con le migrazioni internazionali. L'Ungheria esemplifica bene questa situazione e questa realtà, perché Orban di fatto sta utilizzando come esercito industriale di riserva proprio i lavoratori ungheresi, cioè costruendo attorno alla classe lavoratrice ungherese elementi di conflitto, di frantumazione, estendendo i tempi di lavoro. Quindi l'esercito industriale di riserva è sempre un'azione politica fatta da una parte contro un'altra, e c'entrano spesso veramente poco le migrazioni internazionali, quanto chi controlla il potere politico e che lo vuole conservare contro qualcuno, cioè tenendo a freno le rivendicazioni salariali, in questo caso dei lavoratori, e rivendicazioni anche sul piano dei diritti dei lavoratori stessi. Ma ripeto, anche l'Italia è un esempio di questo tipo. Cioè, io quando guardo il contesto italiano, il nostro esercito industriale di riserva è costituito da una marea di lavoratori pubblici precari che lo Stato precarizza. Loro sono l'esercito industriale di riserva, quindi è una politica di gestione dello Stato dell'esercito industriale di riserva, non è una politica che viene da fenomeni internazionali, il più delle volte. Ti faccio un'ultima domanda, perché tu prima hai parlato della sinistra, e allora come costruire un'alternativa a sostanzialmente le due ricette che abbiamo visto in questi anni, da un lato l'austerity e dall'altro il sovranismo, sintetizziamola così? Allora, a mio avviso la prima cosa da fare è ricomporre il mondo del lavoro. È un mondo del lavoro oggi frantumato in mille rivoli, e oggi è possibile, ad esempio, ricomporre diversi settori del mercato del lavoro rivendicando, da un lato, aumenti salariali e minor tempo di lavoro, quindi una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, e dall'altra parte rivendicando un piano pubblico di assunzioni, di stabilizzazioni nel pubblico impiego, che tolga frange e fasce di povertà dal lavoro pubblico. Noi abbiamo l'obiettivo che è quello di ricomporre il mondo del lavoro, ricomporre forza sociale e quindi forza politica. E io credo che queste due siano due rivendicazioni che possono esserci d'aiuto per ricostruire una forza che sia all'altezza, diciamo, delle sfide che abbiamo davanti.